pollo, pollo, mono, pollo, pato, pato, pollo, mono, mono, pollo, mono, pollo, pollo, mono, pato, mono, pato, pollo, pato, mono, mono, pato, pato, pollo, mono, pollo, pollo, mono, pollo, mono, pato, pollo, pollo, mono, pato, pollo, mono, pato, pato, pollo, pollo, mono, pollo, mono, pollo, pato, pollo, pato, pato, pollo, mono, mono, pato, pollo, mono, pato, pollo, pato, mono, pato, pato, pollo, pollo, mono, pollo, mono, mono, pollo, mono, pollo, pollo, mono, pollo, mono, mono, pollo, mono, pato. Pollo, pollo, mono, pollo, mono, pato, pollo, pollo, pato, pollo, mono, mono, pollo, mono, pollo, pato. Pato, pollo, mono, pollo, pollo, mono, pollo, pato, pato, pollo, pollo, pato, pollo, mono, mono, pollo. Pato, pato, pollo, mono, pollo, pollo, mono, pollo, pollo, mono, mono, pollo, mono, pollo, mono, pato. Pollo, pollo, pollo, mono, mono, pollo, mono, pato, pato, pato, pato, pato, pato, pato, pato, pato, pato, pato, pato, pato, pato, pato, pato, pato, pato, pato, pato, pato, pato, pato, pato, pato, pato, pato, pato, pato, pato, pato, pato, pato, pato, pato, pato, pato, pato, pato, pato, pato, pato, pato, pato, pato, pato, pato, pato, pato, pato, pato, pato, pato, pato, pato, pato, pato, pato, pato, pato, pato, pato, pato, pato, pato, pato, pato, pato, pato, pato, pato, pato, pato, pato, pato, pato, pato, pato, pato, pato, pato, pato, pato, pato, pato, pato, pato, pato, pato, pato, pato, pato, pato, pato, pato, pato, pato, pato, pato, pato, pato, pato, pato, pato, pato, pato, pato, pato, pato, pato, pato, pato, pato, pato, pato, pato, pato, pato, pato, p